verità. Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Hamburger, dici? La colonna portante di ogni colazione vitaminica. You don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. Il problema è che queste scorpacciate di cocaina non riguardano soltanto l'elite cosmopolite, transgender, planetarie e post-capitaliste, ma riguardano una quantità di sfigati, anche giovani, che si distruggono con quintali di cocaina. Ecco, quindi non c'è da difendere l'Apo, c'è da trattarlo come uno di noi. Perché ognuno di noi, nel bene e nel male, supera talvolta le sponde, no? Perché se noi lasciamo passare il principio che la cosa migliore che si può fare è strafarsi di cocaina in un residence e ammazzarsi facendo quello che si deve fare con il trans, purtroppo è una cosa che non riguarda solo l'Apo. Io stesso... Diventerà un modello di riferimento. No, ma lo è già una moda. Che lui vada a trans, chi se ne frega, fa quello che vuole, io forse ho fatto anche di peggio, quindi che cosa vuol dire? No, niente. Se no, poi ha voglia, no. Se ha voglia di farsi di cocaina, faccia quello che vuole, non è un ragazzo, è un adulto, e quindi che problema c'è? Sono scelte personali, magari sbagliate, ma questo è un altro discorso. Era ovvio che finisse così, era ovvio che finisse così, anche... apri il frigorifero e ci sono psicologi, psichiatri, commentatori, giornalistoni, editorialistoni, direttoroni, tutti a parlare di Lapo. Lapo è il can, Lapo è il can. Tutti questi programmi televisivi che avete presente, quelli del pomeriggio, quelli... ma anche della sera, anche del preserale, ovviamente non potevano immaginare di avere una notizia migliore, no? Lapo è il can. Vabbè, guardate, io dico tutto pur di non parlare del referendum va benissimo, tutto. Vogliamo parlare degli nuovi episodi di Peppa Pig che arrivano in Italia? Non lo so, me la sono inventata, care mamme, non è che siete all'ascolto, non è che non svegliate i vostri figli, fateli dormire, non lo so se arrivano le nuove puntate di Peppa Pig. Vogliamo parlare del Milan, vogliamo parlare dell'Inter, della Juve, parliamo di tutto pur di non... E invece no, dai. Ma tenete duro, ancora 2 giorni, oggi, domani, poi si vota e basta, eh. Allora, oggi, signori, c'è Carmelo Lauricella in regia, invece il nostro alpino Peter Bescapè. C'è Lorenzo Nespoli in redazione, come sempre. E poi c'è lui, c'è il nostro ritorno. Io non potevo non chiamarla 2 giorni dal voto, perché... volevo mettermi un po' in difficoltà. Albertone Forchielli, buongiorno Alberto, come stai? Ciao Lino. Dove sei? Dove sei? Dove? Singapore. Mamma mia, Singapore è magnifica. Ci sono stato quest'estate, è magnifica. È bella. Adesso piove, c'è la stagione della pioggia. Vabbè, dai, piove, pazienza, però è bella lo stesso. Sì, è bellissimo. È bella lo stesso. Dai, tu lo sai che... ma lo sapete che da quando con Alberto ogni tanto parliamo del Milan e i cinesi, siccome lui che tanto tira il Bologna, chi se ne frega, ma mi ha messo in difficoltà, ci sono milanisti su Twitter che pensano, Alberto, che io sia, non so, della Juve, dell'Inter, che goda per il fatto, se c'è qualche difficoltà, per gli amati colori rossoneri. Ma è una roba incredibile. Allora, apriamo il Parlamento, apriamolo, e dimmi subito questa vicenda dei cinesi del Milan che a te fa sorridere. Io rido perché fa un po' ridere, però in realtà mi spiace, cioè, grande gloria rossonera. sono io. Però, caro Alberto, allora, come finirà? Sti soldi ce li hanno o no, sti cinesi? Porcaccia. Ma no, ce n'era una parte. Ma dai, i cinesi avranno mille difetti, ma non sono scemi. Piuttosto che un'altra squadra italiana aprono 10.000 franchising di Voltini Primavera. Ecco. Cioè, io lo dissi subito. Chiamò Sky, andai da Sky il 23 giugno e tornai il 5 agosto. E dissi subito, la cordata non c'è, il governo cinese non si entra un cazzo con sta roba e per portare fuori quei soldi servono almeno delle 3 autorizzazioni. Non ti dico milanisti, benandetti di tutti i colori. Anche a me un po'. Poi Sky mi ha abolito. Cioè, dopo questa roba qui ho parlato contro l'inufficiale, perché la linea ufficiale era vergognosamente, se leggi i giornali del 5, sì, il governo di Pechino compra il Milan, sì, il, sì, del, una cosa vergognosa la stampa, capito? Sì. E io, avendo osato, unica voce, però la realtà è che questi qui sono dei mitomani. Dei mitomani, bene, sì, bene, potremmo, sì, dare il Milan a dei mitomani, bene, bene, andiamo, no, bene. E quando sono andato in giro e la cordata non c'era, quando sono andato in giro a raccogliere i soldi e dire che il Milan poi lo portava in borsa 2 miliardi, la gente si è fatta del scureggio sopra, mi chiamavano e ridevano dalla Cina. Per cui sono rimasti appesi con questi 100 milioni di cauzione, che fra l'altro l'hanno presa a prestito, quindi voglio vedere. Come l'hanno presa? Anche il ponte, come Calvi, quelli lì. No, li troviamo. No, speriamo di no. No, speriamo di no per loro. No, lunga vita a questi cinesi, nessuno vuole loro male, nessuno vuole loro. Ma sono cassi tra cinesi, eh? No, sono partite di compensazione interna. Ah, cioè loro hanno chiesto 100 milioni a qualcuno, adesso qualcuno glieli chiederà, esatto, indietro, glieli chiederà. Wow. Vabbè, vabbè, niente. Quindi... E adesso faticosamente, capito? E poi invece il Berlusca si è rigalustito, poi anche lui deve riculare lentamente perché fa una figura di merda, no? Ha fatto tutta sta roba, la grande transazione, la grande roba, il governo di Pechino. Anche alla fine fa una figura di dilettanti assoluti. Quindi, no? Per concludere, secondo te, visto che il 13 dovrebbe esserci questo closing, non ci sarà nessun closing, non ci sarà. No. Svaniranno. No, questa cosa andrà lunga, la diluiranno pateticamente nei mesi. Vabbè, ma hanno detto il 12, il 13 dicembre, invece no, si inventeranno. Sì, poi dopo posticiperanno, poi dopo. Se voi ti ricordi, Mr. P, quanto l'ha tenuta lunga? Mr. P. Noi abbiamo detto subito che era una ciò fake. Me l'ero già dimenticato. Vabbè, allora caro Alberto, io sull'Apo adesso poi ti chiedo del referendum, anche perché il tuo amico Prodi, però allora l'Apo, devo fare una premessa. Alberto, io so tu come ami il motteggiare, le battute. Io devo dire, è due giorni che lo dico, ma è vero, tutta questa ironia sull'Apo, un po', cioè mi sembra un po' un poveretto, un povero che ha un problema. Però non dico, di quello che vuoi, dai, di quello. Ma che insomma, vuoi. Non c'è niente di male. Era il giorno del ringraziamento. E quindi l'Apo è andato a New York per fare una scoffattata di trecchino. E poi dopo è tornato a casa col volo diretto senza scalo, ha fatto tutta una tirata. Eccola lì. Così è andata. Non vedo che sono mica cassi nostri. Vabbè, ecco. Vabbè, niente, è così. Non è detto che tra qualche anno ce lo troviamo alla salaria con un cinquantino falso in mano, ma questo è un altro discorso. No. Questo per proiettare il futuro. No, non credo succederà. Ma no, ma dai, ma voglio dire... Vabbè, dai, è successo, è fatto così, che dobbiamo chiedere. Ma, sì, ma se ne parla da quelle parti? Nessuno. Ma è finito sui giornali anche da quelle parti? No, non credo. No. No, no. Beh, in America sì. No, sì, in America, certo, è successo anche in America, poi sai chi altro. No, qui non l'ho visto. No, sui giornali, niente. Di Hong Kong, di Singapore non c'era. Niente. No. Allora, caro Alberto, il referendum, ma tra l'altro voti all'estero. Oggi sui giornali si parla proprio di questo, il voto all'estero. Pare che Renzi abbia improvvisamente recuperato un grande ottimismo, racconta Repubblica, perché all'estero ha capito che almeno 1 milione di voti punta a portare a casa, e quel 1 milione di voti che potrebbe cambiare la situazione. Tu che fai? Voti? Sì, hai già detto che voti, hai già votato. Che sono? Ossia, allora, la storia del... Dunque, io tecnicamente non voto perché sono residente a Hong Kong e oggi sono a Singapore e io 7 ore di volo per andare a votare non le faccio. Va bene, quindi non voterai. È tutto teorico, no, perché non posso esserci, poi non so neanche dov'è la mia cartella, è là... Vabbè, ma sei ma sono a Singapore, non posso votare. E noi diamo il voto all'estero, avete capito, cari ascoltatori? Gente che non sa neanche dov'è la cartella, sta a 7 ore. Sì, ma non tutti viaggiano come me, capito? No, io penso sì, che ci sono tanti giovani italiani in giro. Non è che siano tutti pro-renziani, Non credo che Renzi si debba illudere, perché c'è molta gente che su questo comportamento di Renzi sono giovani che hanno visto cose, sono infurbiti, capito? Renzi è una figura un po' macchiettistica, sì, quindi non vorrei che lui si illudesse. Certo, ci sono anche molti giovani che sperano in un'Italia diversa, quindi però io non sarei così. Vabbè, ma tu sei contento, positivo. Cioè lo terresti questo voto all'estero, lo tieni, sei contento, è giusto che un italiano dall'estero voti? Sai, le diaspore sono importanti, ossia tenere la diaspora cinese per la Cina è stata fondamentale per la partenza della Cina nel 79, la diaspora indiana per l'India è fondamentale, la diaspora ebrea per Israele è fondamentale, la diaspora curda per tenere in piedi quei poveri curdi in America è fondamentale. Quindi un legame ci vuole. Un legame io sono abbastanza d'accordo. Sei d'accordo. Oh, Prodone. A Prodone mi ha fatto una pipa che c'è. Cosa vuol dire? È un figlio della mignotta. Alberto, dai. Mi ha fatto un pipo. Guarda, siamo partiti insieme. Diciamo la notizia: Romano Prodi ha dato fatto questo documento, lo leggerò poi alla segna stampa e su tutti i giornali all'apertura, dicendo voto sì. Certo, c'è da dire, voto sì, non è che mi strapiaccia questa riforma, però vota sì, ma con dei distinti. Ma io ti racconto la cronaca, mi pare. Vabbè, prima si decisi tutti e due, lui e io si decisi, poi dopo lui vira verso il no. Io tengo duro sul sì e poi dopo. E poi dopo? Poi dopo lui anche a me mi fa scarrocciare verso il no. Poi e poi zac! Scarroccio verso il no. E la zampata di Prodone. No, aspetta. Dopo lui mi dà una lunga spiegazione perché è giusto che non prenda. Che rimanga così, ma faceva così con le dita, no? Dall'altro io cazzo, bravo, sei imparziale. Mi sveglio stamattina alle 6. E scopri sta cosa. No, c'è tutta la gente su Facebook, il tuo amico del cazzo, il tuo amico. Sì, perché diciamo, no, questo è vero, questo è vero, diciamo, spieghiamolo a chi ancora non lo sa, Alberto Forchielli è molto amico di Romano Prodi, con cui ha lavorato per tanti anni, sia all'IRI, sia all'Unione Europea, alla Commissione Europea. Allora, io ero 7 ore avanti, ho chiamato un figlio a casa, il figlio ho trovato sveglio perché va a letto tardi, ma questa storia, guarda, non ho idea neanche io, perché papà fino a 2 ore fa non sappiamo cosa sia successo, è stato un raptus. Oh mannaggia, cosa è successo? Cosa sarà successo? Il giallo di casa Prodi? No, guarda, uno la pressione di Parisi, tutti quanti e compagnia, secondo forse la paura. La paura è arrivata qualche telefonata che gli ha fatto paura sulla crisi finanziaria. Qualcosa. Terzo, Prodone ha sempre pensato che vincesse sì. E quindi? Prodone è convinto che vinca sì. Cioè, è salito e fa come tutti in Italia: sale sul carro del vincitore. Che salga sul predellino, ormai. No. Poveretto, è nonno, stranonno. Dai, lasciamolo stare. Però io ti posso garantire che lui era, non voglio dire, dentro di sé. Era no, perché non ha nessuna simpatia per Renzi. Sì. Vuole stare dalla parte di chi vince, insomma. Vuole fare quello che dice, vedete, ho vinto, comunque. Ma quello no, Quello no, perché non ha più ambizioni politiche, è contento, gira il mondo. Però che ti ha preso un po' di paura. Questo ci sta, ci sta. La paura. Fermati sulla paura. Fermati sulla paura, perché questa me la devi dire. Devo andare al traffico. Ma dopo la paura, i mercati finanziari, il Financial Times che dice che le banche falliscono, il governo tecnico. Tra poco mi dici questa. Bella sta roba del giallo di casa Prodi. Tra poco. E vai col traffico. Eolo, internet ultraveloce per il business. Scopri l'offerta su eolo.it. Vi presenta a Imola, se vai a Troie ti chiedono 10.000 euro di multa. Negli Stati Uniti, se vai a Trans, tu puoi chiedere 10.000 dollari di multa. Non capisco gli indecisi dopo 2-3 mesi di campagna elettorale. È tutto così chiaro? Io voto ni. Oh Maria, sono Anacleto. La prossima volta vieni a Napoli, che se vuol fare del bene, venga qua dalle mie parti a Monteatini, prezzi più modici, gode di più e si diverte di più, hai capito? Faglielo arrivare questo messaggio. Ciao. Che per quanto io non sia, diciamo, un suo simpatizzante, non lo sono mai stato, però dico che prima di levarlo dalla scena ci penserei un po' su, perché non ne vedo tantissimi intorno che abbiano le sue qualità. Perfino Michele Santoro fa l'endorsement a Renzi, caro Forchielli, succede di tutto. Comunque ci stavi parlando delle paure di Romano Prodi. Le paure ci sono, ma questi mercati finanziari, ma chi sono? Chi sono? Chi ci sta guardando? Sono centinaia e centinaia e centinaia di operatori che gestiscono i soldi della gente, delle istituzioni in giro per il mondo. Ma è vero che le banche rischiano, cioè questa cosa, il Financial Times, le banche rischiano di fallire, uscite dall'euro. Sì, però dopo il Financial Times prima ha fatto una campagna terroristica, poi dopo ha incominciato a dire non fa nessuna differenza. L'Economist poi dopo ha detto ma no, in realtà va bene anche il no. In Australia, l'Australian, che è molto molto rispettato, ha fatto un'analisi perfetta che giunge alla conclusione che non fa nessuna differenza. Quindi non c'è il terrorismo, non ci sono le cavallette, no. Insomma, che c'è. Ma guarda, in realtà la preoccupazione dei mercati è se il governo non è stabile, quindi se non passa la riforma il debito non viene mai ridotto, ok? Per cui alla fine il paese salta, però ci sono tanti di quei passaggi da questo referendum a un governo stabile che sia responsabile, per cui alla fine i mercati avevano già digerito il no. Era alzata la spread a 190 qualcosa, perché i mercati agiscono sempre prima, adesso la spread si è ridotta. Io questa preoccupazione è una roba che abbiamo... Diciamo, possiamo tranquillizzare i cittadini italiani o all'estero, votate in base a quello che pensate che sia giusto per la Costituzione, non pensate che con il sì o con il no arrivino gli tsunami in Italia. Per esempio, ecco, sai, si parla molto di governo tecnico, caro Alberto, no? Ogni tanto si parla di governo, si parla di Padoan come il possibile... Per l'amor di Dio. No, sai, si parla addirittura di Franceschini come anche. Non solo non buca lo schermo, ma ti spondono anche i coglioni quello lì. Poi sai, Alberto, io sarei in favore del governo tecnico, perché almeno fa le cose che devono essere fatte. Altrimenti i governi politici in Italia devono comprare il voto. È incominciato da rumor 40 anni fa e comprare il voto costa e aumenta il debito. Cioè, voi capite, io a tre giorni dal referendum invito Alberto Forchielli, insomma, Padoan l'abbiamo sistemato, Franceschini non voglio, il tuo amico Romano Prodi l'hai definito tu come su Twitter, tra poco andrò e va bene. Cosa rimane? Ti faccio sentire Berlusconi, senti da Vespa. È da Bruno Vespa ieri sera, Berlusconi, fresco fresco. Renzi ha la possibilità di non dimettersi. Renzi. ha promesso di dimettersi e addirittura ha promesso di lasciare la politica. Se lui si dimettesse e lasciasse la politica, troverà sempre una porta aperta. Che programma gli farebbe condurre? Guardi, è un grande intrattenitore e quindi potrebbe condurre qualsiasi programma, anche l'Isola dei Famosi. Eccolo qua, Berlusconi, l'Isola dei Famosi per Renzi. Vabbè, Berlusconi, caro Alberto, certo che ha 80 anni e tu l'hai... No, beh, è incredibile, senti come parlo, 80 anni, veramente vabbè. Straordinario. Adesso... sarà l'operazione, il post, sarà il Milan, adesso gli è preso la sindrome, ha preso coscienza della miccia corta, si rende conto che deve fare qualcosa, solo che ragazzi con quel look nero, con gli occhiali da uveite, più che un premier sembra Sorblick. un ex premier. Sì, adesso vorrebbe fare il kingmaker, ossia quello che decide chi sarà, capito? Direi che ha fatto il suo tempo, per Berlusconi sarebbe una brutta botta sui mercati. Vabbè, ma non è che torna, anzi adesso pare che voglia dire un nuovo patto del Nazareno, magari con regole un po' più precise, insomma, vedremo. Non crede più nessuno a quei patti, lo vedi anche tu che non si possono mantenere. Senti, in conclusione, ti spaventa uno alla De Luca? Sai che De Luca è criticato, appena lo citi ti dicono fa uno che fa il voto di scambio, queste accuse, insomma, tutte da provare, ma insomma, il metodo De Luca, si sa, votate Renzi che ci arrivano tanti soldi e via, e a lei. Ma io conosco gente lì a Salerno, in Campania, penso che lui sia un governante molto efficace, sì. Ma alla fine è uno che le cose le fa, Salerno è stata una città gestita molto bene, sì, per colpa di De Luca la Bindi è cresciuto un centimetro di barba in più, insomma, non è che sia un gran problema. A questo punto devo dire, con la povertà di competenze che c'è, ne vengano i De Luca. Va bene. I risultati li ottiene. Va bene, mi hai fatto sistemare anche oggi con Rosy Bindi. Va bene. E mi prendi poi a qualche giornale tuo che hai lì, magari a Singapore, fondiamo Singapore Gazette, va bene? Singapore Gazette, io vado. Mi trovi sicuro, un posto al Milan con mi trovi un posto nel Milan dei cinesi, non lo so, faccio anche il magazziniere, va bene tutto. Albertone, ti devo salutare, ti devo ringraziare. Alberto Forchielli con noi da Singapore, ti ritroveremo dopo il voto, vedremo come va. Intanto un abbraccio e andiamo al giornale radio, poi entriamo con la rassegna stampa. Babbarie, queste sono babbarie, diciamo sinceramente. La prima una B, la seconda con due B. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Aline Mila, Eli e Gestigion, Lanciano di Yamia. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:20 minuti, siamo pronti a leggere i giornali, qui lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Oh mamma mia, dopo il ciclone Alberto Forchielli che ha sistemato un po' tutti dalle 6:30 alle 7, anche il suo amico Prodi che ritroviamo in prima pagina su molti quotidiani, andiamo a sfogliarli. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. E Ale, siamo nel mese di Natale, è giovedì 1 dicembre e le aperture dei quotidiani, il Sole 24 Ore, accordo OPEC sui tagli, rally del petrolio più 9%, questo è il titolo di prima pagina. C'è uno sguardo internazionale per il Corriere della Sera, perché c'è un'intervista al ministro degli esteri russo Lavrov. Russia e Stati Uniti, ora si riparte. I piani di Mosca, milionari nella squadra di Trump, rivoluzione sulle tasse. Dunque il Corriere della Sera apre sull'attualità internazionale. E poi ecco qui,